Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Ora la sottoponiamo a qualche test. Questa è una semplice macchina della verità. Io le porrò alcune domande a cui risponderà sì o no e lei dovrà dire solo la verità, mi ha capito? Sì. Ma possiamo sempre dire la verità? Voi ce la fate? Buongiorno intanto da Nicoletta. Io devo dire che diffido sempre di chi afferma di dire sempre la verità, perché probabilmente per me sta mentendo, e un esame oggi potrebbe provarlo, perché le bugie lasciano il segno, meglio un'impronta, nel nostro cervello. Non è fantascienza, è scienza. A svelarlo è uno studio pubblicato su PLOS ONE dalla professoressa Alice Mado Proverbio del Dipartimento di Psicologia dell'Università di Milano Bicocca. Buongiorno. Buongiorno a voi. Professoressa, rassicuriamo subito chi ci ascolta. Non c'è nessun pericolo che dal vostro studio nasca, almeno no, nell'immediato futuro, una specie di macchina della verità ad uso domestico. Insomma, possiamo ancora dire le bugie con la speranza di non essere smascherati. Ma beh, sì, possiamo essere abbastanza tranquilli, soprattutto in Italia, paese in cui è assolutamente vietato l'utilizzo di queste procedure, di questi macchinari, mentre negli Stati Uniti io sarei un po' meno tranquilla, perché come sapete loro hanno appunto la macchina della verità, che viene utilizzata nei processi per stabilire l'accertamento della verità. Noi possiamo ancora continuare, possiamo ancora stare tranquilli. Professoressa, abbiamo letto di questo studio e ci sono stati giornali che hanno riportato l'impronta digitale, il segno. Di che cosa si tratta? Ci spiega? Certo, si tratta della possibilità, con sistemi di misurazione dell'attività del cervello, di individuare, di avere un segno, un marcatore, diciamo, dell'attività di quelle regioni del cervello che sono attive, che sono implicate nella capacità di mentire. La capacità di mentire è molto sofisticata, la possiede solo l'Homo sapiens, e prevede la capacità di immaginare che gli altri hanno una mente, hanno delle credenze, e noi cerchiamo di manipolarle allo scopo proprio di ingannarli. Quindi individuare quali sono queste regioni molto sofisticate è appunto l'obiettivo del nostro studio, e abbiamo individuato un marcatore che appunto si chiama N400, che riflette l'attività del cervello 400 millisecondi dopo che una persona sta mentendo, e che rivela inequivocabilmente l'attività di queste regioni che appunto sono la base neurale della bugia. Eccolo lì, questo N400. Sì. Ma professoressa, lei quindi ci dice che mentire è per menti evolute, diciamo così. Sì, è per menti estremamente evolute. Diciamo che l'essere umano è uno dei quasi unici animali che utilizza questa capacità. Diciamo che ci sono alcune specie, i primati per esempio non mentono, ci sono alcune specie filogeneticamente inferiori che per esempio mostrano delle finte, no? Come i calciatori che fanno le finte, cioè per esempio cercano di allontanare i predatori lontano dal nido, no? Per salvaguardare la prole, oppure nascondono il cibo. Queste sono le uniche forme di menzogna. Invece negare quello che si ritiene essere la verità per ingannare gli altri richiede una maturità cerebrale notevole, tanto è vero che i bambini piccoli è vero che mentono, ma sono facilissimi da scoprire, perché non sono capaci di controllare, perché per mentire bisogna non solo dire una menzogna, bisogna controllare tutta la postura, il tono della voce, le espressioni facciali, la mimica, è complessissimo e quindi richiede proprio un'abilità molto sofisticata. E alla lunga stressa. Qua in studio con me il professor Paolo Cavedini, psichiatra e professore alla Scuola di Psichiatria dell'Università di Firenze. Professore, buongiorno. Buongiorno a tutti quanti. Insomma, mentire ci fa quasi ammalare. Beh, è fortemente stressante, come diceva la professoressa prima, controllare tutte le variabili, no? Dobbiamo stare attenti a non essere scoperti, a non contraddirci, ed è un po' come rimanere sempre col motore acceso, pronti a partire in ogni situazione, e questo evidentemente costa. Professoressa, dal vostro studio come proseguirà? Allora, adesso tra l'altro vorrei citare la mia più importante collaboratrice Maria Eli e Vanutelli, che si sta occupando proprio di questa tematica. Stiamo osservando la capacità di mentire su posti in cui noi effettivamente siamo stati, quindi ovviamente questo è un diretto richiamo riferito, no, ai delitti in cui l'accusato nega di essere stato nel luogo del delitto, no? Quindi la capacità del cervello di manifestare il riconoscimento del luogo che per lui è familiare perché c'è già stato, no? Perché ovviamente ha commesso il delitto, quindi la bugia sui posti e la bugia sulle facce, quindi negare di conoscere una persona che invece il nostro cervello riconosce, perché noi siamo consapevoli, diciamo, del 5% delle informazioni contenute nel cervello, quindi una parte di noi può mentire, può dire no, io questa persona non l'ho mai vista, in questo posto non sono mai stato, ma ci sono altre regioni del cervello invece che mostrano una reazione di riconoscimento, riconosco benissimo questa persona, riconosco benissimo questo posto, e noi possiamo avere dei marcatori appunto elettromagnetici che ci dicono questa persona conosce benissimo quest'altra persona, anche se verbalmente dice no, di non conoscerla. Non la conosco. Insomma, il suo lavoro e il lavoro del suo gruppo, professoressa Amado Proverbio, è quello di smascherare il cervello, le funzioni del cervello, perché lo conosciamo poco. Sì, diciamo che tutti i neuroscienziati cognitivi hanno proprio questo obiettivo, cercare di capire come funziona la mente, è veramente un mistero, perché come sapete tutti è complessissima la mente, soprattutto dell'essere umano, eppure ci sono dei meccanismi neurali che noi appunto ancora non conosciamo e cerchiamo appunto di scoprire quali siano. La saluto con un sms che ci manda Tina al 349-238-6666. Abbiamo detto che la menzogna delle menti evolute, e Tina ci scrive: allora i nostri governanti sono delle supermenti super evolute. Professoressa, bisogna essere molto furbi, ecco. Grazie alla professoressa Amado Proverbio e complimenti, buona giornata. Grazie, arrivederci, buona giornata anche a voi. Si accusa un sospetto e lui si mostra sorpreso. Come capisco se è sincero o se cerca di apparire innocente? Quella è una sorpresa sincera. Compare sul volto per meno di un secondo. Ma se l'indiziato mostra sorpresa per più di un secondo, sta solo fingendo. Sta mentendo. Lie to Me, ricordate il telefilm, se lo ricorda, professor Cavedini, in cui c'era questo psichiatra detective che smascherava i bugiardi? Lei detective al momento? Ancora no. Può sempre fare un corso per corrispondenza, magari così viene di nuovo in doppia veste, però è psichiatra. Ci sono degli indicatori estremamente utili e attendibili per smascherare i bugiardi? Sì, ci sono tanti elementi che ci possono guidare, anche se smascherare un bugiardo non è sempre facile. Per esempio, possiamo concentrarci sul racconto che la persona ci fa. A volte, il racconto è abbastanza povero di particolari, ma tende molto a essere giustificabile anche se non viene richiesto. Quindi si dicono agli altri cose, anche se non ci vengono chieste, che tendono a dare corpo alla nostra menzogna. L'excusatio non petita. Esatto. Poi un altro elemento potrebbe essere legato al tono di voce, alla velocità dell'eloquio. Generalmente la menzogna parte a bassa voce, con l'eloquio molto rallentato, quasi nell'incertezza di verificare se quello che diciamo viene creduto. Poi, non appena riconosciamo nell'altro un minimo di riscontro a quello che viene detto, allora poi acceleriamo l'eloquio, acceleriamo il tono di voce. Bisogna però dire che a volte questi comportamenti, soprattutto nei mentitori frequenti, vengono controllati. Quindi, se voglio raccontarti una buona bugia, cerco di fare attenzione a tutte queste cose. Allora esistono, fortunatamente, anche se non sono facili da rilevare semplicemente dall'osservatore, degli elementi involontari che contraddistinguono uno stato emotivo un po' contraddittorio dentro di noi. Diciamo una cosa, ma ne pensiamo un'altra, abbiamo paura di essere scoperti, questa cosa aumenta un po' il nostro stato di tensione, allora per esempio non so, la dimensione della pupilla piuttosto che no, il numero di sbattiti delle palpebre che aumenta considerevolmente, in qualche modo dicono che dentro di noi c'è qualcosa in contraddizione, e questo potrebbe essere l'equivalente fisico della menzogna. E voi siete più bravi a raccontarle o a smascherarle? 800 24 00 24. Ad esempio, voi ne avete già raccontato qualcuna stamattina? Oppure temete che qualcuno l'abbia raccontata voi? Chiamateci subito, il nostro numero verde è a vostra disposizione, come sempre potete seguirci su Facebook e su Twitter. Chiamo a deporre Samantha Cole, vostro onore. Silenzio! Silenzio! Silenzio! E finitela! Stia seduto! Signora Cole, questa è una fotocopia della sua patente, esatto? Sì. C'è scritto che è bionda, lo è? Se l'ha dimenticato, immagino che il signor Falk lo ricordi. Non sono bionda. Potremmo sentire il nastro, probabilmente lo dice. Non sono bionda, le ho detto. La ringrazio. Allora vediamo. Peso 49 kg. Certo. 56. Ah. Ok, va bene, sta sui 60. Contento? Il peso. In linea con noi abbiamo la dottoressa Monica Piccinni, psicologa e psicoterapeuta. Buongiorno e bentornata. Buongiorno Nicoletta e buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. Il repertorio è ampio e variegato, ci sono bugie per tutte le età, tutte le stagioni, per tutte le situazioni. Direi, dottoressa, che non abbiamo che l'imbarazzo della scelta, ma, e lo sappiamo, c'è bugia e bugia. E se noi la raccontiamo a qualcuno, la bugia che raccontiamo racconta anche qualcosa di noi. Allora, diciamo che effettivamente ci sono diversi modi e diverse situazioni in cui le persone dicono bugie, ci sono tante bugie diverse, per esempio quella bianca, sociale, viene chiamata, che si dice per educazione o magari per non ferire la sensibilità degli altri, quando guardiamo un'amica che ci chiede come ci sta il vestito che ha comprato, naturalmente diciamo ti sta benissimo. Sì, oppure si è tagliata appena i capelli e esatto, come sto, uno non può dire ormai che sono tagliata. Ti stanno malissimo. Esatto, perché il danno è fatto. Può dire però modo... vedrai che poi crescono. Ecco. Ecco, esatto, mentre poi ci sono anche le bugie che in qualche modo i genitori per esempio dicono ai bimbi, ma piuttosto per gratificarli, per offrirgli vicinanza in quel momento, no? Quando loro ci chiedono se un lavoretto è stato fatto bene o meno, o se ci chiedono se ci piace, naturalmente la bugia in quel caso è assolutamente rassicuratoria. Inoltre ci sono bugie che si dicono in termini un po' più utilitaristici, bugie per esempio usate con il datore di lavoro, no? Per evitare un incarico difficile o noioso, quindi la bugia per ogni situazione, in ogni momento. Inoltre ci sono anche quelle più protettive, quelle che si usano per esempio nella relazione. Le donne in questo caso utilizzano sicuramente delle bugie più protettive, che cercano di mantenere, come dire, la relazione in un equilibrio. Ecco. L'importante sicuramente è non esagerare, no, con le bugie, anche perché sennò diventano un qualcosa che ci si ritorce contro. Sicuramente, come dicevi tu, sono d'accordo che, come dire, quando noi diciamo una bugia, forse questa situazione nasconde qualcosa e ci dà anche il modo per capire qualcosa di noi, per esempio la paura di non essere accettati, quindi alcune persone dicono bugie perché hanno la sensazione che... Quindi in fondo la verità, c'è un'insicurezza. E probabilmente questo sì lo denota, ma più che altro forse un senso di inadeguatezza, no? Sicuramente negli aspetti più sociali, piuttosto che anche un eccessivo senso di responsabilità, no? Alcune persone a volte dicono bugie perché hanno paura in qualche modo di esporsi alle conseguenze negative delle proprie azioni e quindi sono costretti in questo meccanismo a magari stravolgere un pochino la realtà a loro vantaggio, ecco, ma sempre per la paura che qualcosa possa andare male, per la paura di non essere appunto accettati o comunque presi in considerazione in maniera positiva. Quindi l'invito potrebbe essere, oltre a quello che abbiamo lanciato con il professor Cavedini, siete più bravi a raccontarle o a smascherarle, raccontateci qual è la bugia che ricorre con più frequenza nel vostro repertorio, perché potrebbe svelare qualche cosa di voi e quindi raccontateci. Utilizzate spesso bugie utilitaristiche, scusate il bisticcio di parole, oppure magari siete più propensi a dare e dire bugie sociali, o invece avete costruito una vita intorno alle bugie, lavoro, famiglia, amici, sconosciuti, quali sono le persone a cui con più naturalezza dite le bugie? 800 24 00 24, abbiamo Marco che ci chiama da Ancona, benvenuto a lei. Marco? Sì, pronto, buongiorno. Eccolo, buongiorno. Buongiorno a tutti, ma la mia esperienza è particolarmente semplice, nel senso sono un commerciale che quotidianamente incontra persone e chiaramente, come diciamo tutti i commerciali, diciamo che non dico bugie, ma diciamo che ho elaborato, a parte che sono un amante della programmazione neurolinguistica, ma ho elaborato il modo di dire, diciamo, delle mezze verità, non le bugie, ma le mezze verità, anche perché le bugie, soprattutto nel settore commerciale, hanno le gambe corte, ma quindi, diciamo, le mezze lei verità, mi scusi Marco, quale mezza verità ha già detto oggi? Ma vabbè, stamattina è stata una cosa un po' particolare per me, la mezza verità. In realtà non era per lavoro, ma ero andato a rinnovare la patente e chiaramente richiedeva molto tempo il rinnovo della patente. In realtà era la patente nautica che io utilizzo solo nel weekend. E la donna a cui avevo di fronte ho detto che era un pescatore e quindi mi serviva per lavoro la patente. Quindi diciamo che non era proprio una bugia, ma diciamo che non era molto distante. Sì, però chiaramente nel mio atteggiamento viene facendolo quasi quotidianamente, viene tutto abbastanza naturale. Ecco, questo ormai La patente l'ha presa? Gliel'hanno rinnovata, Marco? Assolutamente sì. Vede. Professor Cavedini. Come dire, il fine giustifica i mezzi, no? La bugia in questo caso mi sembra più una strategia, a volte anche finalizzata a migliorare un po' la qualità della vita. Va bene, è giustificabile, a patto che non diventi l'unico stile di vita che uno adotta, tutto qua. Professor Cavedini, la bugia esce dalla bocca ma nasce nel cervello, che a volte, lo sappiamo, dice anche lui le bugie. Qua non ce la togliamo più, queste bugie. Sì, perché non solo, come diceva prima la professoressa che abbiamo sentito, esiste un marcatore cerebrale della bugia, ma a volte è il cervello stesso che ci mente e ci fa credere, ad esempio, di vivere situazioni di pericolo imminente quando in realtà non lo è, come capita per esempio nelle forti stati d'ansia o nei forti stati di panico. Quindi il cervello ci mette nelle condizioni di pensare che possa succedere qualcosa di catastrofico nell'immediato, però questa bugia ci può anche rovinare la qualità della vita se non facciamo attenzione e non ci facciamo aiutare. E ha tutta una serie di sintomi. Sintomi che vanno dalle manifestazioni fisiche, tipiche quelle dello stress o dell'ansia, da palpitazione, lo stato di agitazione, a sintomi di tipo psichico, la paura improvvisa di morire, di perdere il controllo. E se è vero che l'attacco di panico è una bugia del cervello, come ci suggeriva il professor Cavedini, vi ricordo che abbiamo dedicato proprio un'intera puntata a questo tema, potete trovarla nell'archivio di Essere Benessere. Voglio segnalarvi che all'attacco di panico è dedicato un convegno che si svolge oggi, venerdì 14 giugno, al Campidoglio, ed è organizzato dall'ALPA, che è l'Associazione Liberi dal Panico e dall'Ansia. Se volete saperne di più dovete andare sul sito www.infoalpa.it, perché è aperto al pubblico e gratuito, una buona occasione per saperne di più. Ma se è vero che nascono dal cervello le bugie, dato che noi abbiamo un cervello diverso dal vostro, professor Cavedini, io e la dottoressa Piccini abbiamo un cervello un po' diverso da quello, no, che porta lei in giro. Credo proprio di sì, e mi spiace dirlo, ma gli uomini mentono più delle donne. Sono stato onesto, non ho mentito proprio adesso, quindi ho detto la verità delle cose. Gli uomini mentono di più e mentono anche su contenuti sostanzialmente un po' diversi. Mentono per le cose più pratiche, per celare alcuni comportamenti che non sono stati corretti, mentono per nascondere delle cattive abitudini. Le donne mentono più sugli aspetti emotivi, affettivi, non soltanto quelli all'interno di una relazione, ma anche nel rapporto tra donne, come si diceva prima, eccetera. Le donne però sviluppano un maggior senso di colpa quando raccontano bugie, quindi gli uomini sono più freddi, un po' più meno freghisti. Mi spiace non poter difendere la categoria, ma è così. Deve essere sincero. E lo sono stato. E allora, Vanity Fair questa settimana ha ripreso una ricerca condotta da My Celebrity Fashion e ha fatto questa classifica sulle 10 bugie più dette dalle donne. La sentiamo e poi commentiamo insieme. E aspettatevele, perché abbiamo messo anche una ricerca che fa l'hit parade delle bugie più dette dagli uomini. Il numero di partner, i motivi della rottura con l'ex, il costo del guardaroba, il lavoro, la situazione finanziaria, l'età, il tradimento, il peso, la taglia del reggiseno, il colore dei capelli. Dottoressa Piccini, che dice? Sì, buongiorno. Allora, dico intanto, ascoltando il collega che appena parlato, dottor Cavedini, sugli aspetti della divisione tra uomini e donne, che sono assolutamente d'accordo, nel senso che si dice da sempre che la bugia sia donna. Purtroppo, secondo me, nell'ultimo periodo invece questa situazione si è veramente differenziata, a carico quasi più della categoria maschile, ma proprio perché gli uomini, forse in termini, come dicevamo prima, più utilitaristici, utilizzano la bugia anche proprio come strategia di base, no? Nel lavoro o anche nel loro loro relazioni sociali. Invece la donna utilizza la bugia in termini un po' più protettivi, per proteggere la relazione, per proteggere se stessa, per proteggere naturalmente i suoi sentimenti o per il bisogno di accettazione, di successo in qualche modo. Quindi sono assolutamente d'accordo. Sentiamo se sono d'accordo anche i nostri ascoltatori, che sono invitati anche a partecipare per raccontare la bugia che hanno detto oggi. Alle bugie più curiose, quelle che ci sembrano più fantasiose, regaleremo qualche libro della libreria di Essere Benessere, per cui siate sinceri, chiamate il nostro numero verde e raccontateci. Intanto andiamo a sentire su cosa invece mentono gli uomini. Qualche tempo fa è stato il Time of India a riportare l'elenco di quelle che sarebbero le 10 bugie preferite dal sesso forte. Non la stavo guardando. Non ho fumato una sigaretta. Sogno solo te. Ero troppo qualificato per quell'azienda. Con il GPS domino la strada. Non posso stare più di un giorno senza di te. Non stavo dormendo, stavo pensando. Non mi sono dimenticato. Noi non pensiamo a un qualcosa tutto il tempo. Non sto perdendo i capelli, è la faccia che si sta espandendo. E in linea con noi abbiamo Alvaro che ci chiama da Brescia. Buongiorno. Buongiorno. Si è riconosciuto nelle bugie degli uomini, Alvaro? No, io di bugie, allora voglio dire... Non mi dica no, così. No, sono né professore né scienziato, né uno né l'altro, sono un banalissimo operatore commerciale. Mm. Voglio dire uomini, donne, bambini, bambini no, però uomini e donne, signori, le bugie bisogna ricordarsi a chi si raccontano poi. Certo. È lì. Perché quando hai raccontato la bugia, bisogna ricordarsi a chi la si racconta, perché se no si fanno delle grosse figure barbine. Le è capitato, Alvaro? Mai, di bugie non ne racconta. Non ne racconta, neanche quelle piccole? Neanche quelle piccole, perché allora raccontare la bugia cos'è? Vuol dire farsi sentire... o più bravi si ragiona in un senso, non so, sportivo, agonistico, così via. E furbo se si vuol parlare di avventure, di quelle cose. Ha tirato fuori l'avventura. Insomma, Alvaro dice lui, professor Cavedini, di non dire mai bugie. Ed è vero che bisogna, per raccontare le bugie, bisogna saperle raccontare, e questo ci stressa parecchio, e ricordarci, perché a mano che la memoria diminuisce, forse bisognerebbe ridurre il numero delle bugie. Ma io invece vi invito, se non siete come Alvaro, a raccontarci all'800 24 0024 la bugia che avete detto stamattina. Essere e benessere. Che è successo? Oh, bastardo! Perché mi hai ingannata così? Perché? Calma! Cos'hai fatto fino a quest'ora? Dove sei stato? Ma lo sai! Cioè? Sono stato con Adriano! Con Adriano? Con Adriano, con Adriano, te lo giuro! Sei un bastardo, bugiardo, schifoso, mi fai schifo! Come ti senti? Mentiamo noi stessi perché la verità ferisce maledettamente. Mi sento bene. A tua madre non piaccio molto, vero? Pazza di te. Ah, vedi, stai mentendo, ti mordicchi i capelli. In ogni posto di lavoro c'è sempre quello che deve spararla più grossa degli altri. A 19 anni gareggiavo a livello olimpionico nella corsa a ostacoli. Mi offrirono una borsa di studio, ma poi andai a letto con la figlia del presidente. Non il presidente del college, quello degli Stati Uniti. Allora, bugie. Un ascoltatore mi ha scritto: ciao Nicoletto, ho visto uscire dalla mia radio il naso di Pinocchio dell'ascoltatore di prima che diceva non mento mai. Professor Cavedini, diffidare di chi dice di dire sempre la verità? Beh sì, anche perché non è molto furbo dire sempre la verità, non stiamo invogliando a dire bugie a tutti i costi, però a saper gestire un po' le cose sì. Però vi invitiamo a raccontarci la bugia che avete detto stamattina. Se non le avete dette, sparate una bugia all'800 24 0024, perché noi oggi apriamo la libreria di Essere Benessere e ci alleggeriamo un po'. Quindi però raccontateci delle bugie un po'. Il professor Cavedini mi diceva: ma un po' sfiziosette, un po' divertenti, un po' fantasiose, un no? Po' se fantasiose. No, manchiamo di fantasia qua. Dottoressa Piccini, e ci sono poi le bugie che raccontiamo a noi stessi. Secondo Goleman, che è, possiamo definirlo l'autore, l'inventore dell'intelligenza emotiva? Sì. La mente di ognuno di noi ha una specie di parte cieca che è incapace di vedere le cose come stanno in realtà, in cui ci rifugiamo. Ecco, allora che diciamo che il vestito si è stretto in lavatrice, così per non ammettere che ci siamo magari un po' ingrassate, oppure che il collega fa carriera perché è raccomandato. Allora, sì, sicuramente, come anche dice Goleman, mentire a noi stessi funziona purtroppo a volte, no? Come abbiamo detto prima, anche il dottor Cavetini lo diceva, a volte aiuta a dire delle bugie. E che cosa aiuta? Aiuta ad accettare alcuni nostri comportamenti disfunzionali, certo, no? Più delle volte, anche ad accettare i nostri limiti, a non volerli vedere in qualche modo. Rende più semplici anche le interazioni sociali, ci aiuta a volte. Ma a noi come facciamo a capire che ci stiamo raccontando una bugia, e soprattutto ci sono delle bugie che ci raccontiamo e che ci fanno bene, perché magari siamo giù e chi se ne importa di quei due chiletti in più, no? Meglio pensare che sia il vestito a stringersi, invece ci sono delle bugie che ci fanno male. Allora, guarda Nicoletta, secondo me la cosa migliore è provare a fare come dire, un'analisi di quelli che sono stati i comportamenti precedenti nella nostra vita che poi ci hanno portato magari a delle conseguenze negative, e analizzarci sul fatto se in quel momento avevamo valutato bene la realtà, no? Che ci stava davanti o meno. Ma la cosa migliore da provare a fare, secondo me, è provare a dire la verità nei momenti più difficili della propria vita, proprio quando ci verrebbe voglia invece di dire altro o accettare altre situazioni, e poi provare ad accettare le conseguenze. Questo può aiutarci a stare meglio, farci sentire più forti, per poi produrre naturalmente un comportamento più adeguato nelle volte successive. E noi andiamo a sentire Franco, che ci chiama da Brescia all'800 24 00 24. Benvenuto. Buongiorno. Eccoci qua, Franco. Allora, si chiamerà Franco davvero oppure è una bugia? No. Franco, infatti il mio nome con le bugie va benissimo, perché certo, io non le racconto perché sono Franco. No, ho chiamato perché mi diverto molto a inventarle le bugie, sì, e a farle bere agli altri. E non so come mai mi scatta questo meccanismo, mi invento tutta una storia per fargliela bere bene, e vedo che tanti ci abboccano e mi diverto un mucchio. Ad esempio, mi faccia un esempio. Ma che ne so, una volta ho rotto la macchina, ho tamponato la macchina, e arrivando al bar ho detto: ah, non sapete cosa mi è successo, sono entrato in una strada di campagna, ho trovato tutte le pecore che pascolavano, ho fatto una strage. E tutti lì a chiedermi: ma la macchina, cosa è successo, le pecore, il pastore è lì. E ho iniziato a raccontare la storia, mi sono un po' scaricato da questo tamponamento, mi sono divertito un mucchio, tant'è che ancora oggi mi chiedono delle pecore, di quanto ne pagate le pecore che ho. Che si diverte. Professor Cavedini, a Franco, a cui io farò arrivare le coincidenze necessarie di Patrizia Marzocchi, perché ci ha divertito questa storia delle pecore. Sì, che cosa... vinto d'ufficio. È un modo anche per divertirsi, per scaricare, soprattutto perché sono innocenti. Adesso, voglio dire, con le pecore non ha mica mai ammazzato nessuno. No, assolutamente. La bugia in questo caso non è un mezzo per arrivare ad uno scopo specifico, ma è un fine, cioè è qualcosa che in qualche modo lui usa per gratificare se stesso, per mantenere un certo atteggiamento nei confronti degli altri, e anche per divertirsi. Quindi è dotato di una buona fantasia, e questo sicuramente lo premia. 800 24 00 24, raccontateci le bugie, che magari bugie anche un po' strane. Dite una bugia, perché da come la raccontate i nostri esperti possono anche scoprire qualche cosa di voi. Parliamo anche delle bugie che raccontiamo a noi stessi. Questo è un grande capitolo, l'abbiamo affrontato con la dottoressa Piccini. Stanno arrivando dei messaggi, naturalmente molti mi scrivono: faccio finta di non vedere i segni degli anni che passano sul viso, i chili di troppo, faccio finta di essere felice, mi racconto che la mia compagna è quella giusta per me, e quindi si va dal tratto fisico a invece dice proprio degli stati d'animo, ma tra le tante cose che ci raccontiamo, è una è quella di non avere tempo da dedicare agli altri, dicendoci ad esempio che non abbiamo tempo neppure per noi stessi, eppure ci sono tante persone che riescono a trovarlo. Proviamo a chiederci come mai. In linea con noi abbiamo Cristiano Lena, è responsabile della comunicazione FIDAS nazionale. Benvenuto, dottor Lena, buongiorno. Buongiorno Nicoletta e buongiorno a tutti gli ascoltatori di Essere e Benessere. Perché ho fatto tutta questa, dalle bugie alle cose che ci diciamo? Perché io voglio ricordarvi un appuntamento importante. Oggi è la giornata mondiale del donatore di sangue. Non ci diciamo bugie. Tutti noi, a partire dai 18 anni, dottor Lena, possiamo diventare donatori di sangue. Assolutamente, oggi tutto il mondo, perché questa giornata è stata istituita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, celebra questo evento proprio per ricordare l'importanza di un gesto che tutti quanti, tutte le persone in buona salute dai 18 ai 65 anni possono compiere. E spesso capita che magari ci si difenda dietro qualche scusa. Quindi c'è la paura del lago, c'è la scusa del tempo, c'è anche la scusa che ci può pensare qualcun altro, mentre in realtà siamo tutti quanti chiamati a tendere il braccio, perché è un gesto di solidarietà che a noi in realtà costa poco tempo, ma può salvare una vita. Dottor Lena, parte anche una campagna? Sì, oggi FIDAS nazionale propone una campagna che si chiama La forza di un gesto. Abbiamo avuto la disponibilità di un testimonial originale che si chiama Stefano Scarpa, è un ragazzo di Trani, sì. Che lo scorso anno ha vinto il Talent Italia's Got Talent, sì. Con un numero di arte circense, in cui mette in luce la sua grande forza fisica, anche la sua grande eleganza. E ha dato la sua disponibilità per la realizzazione di uno spot che da oggi è visibile sia sulla pagina FIDAS.it, sui vari social network e anche sulle televisioni locali che hanno accettato di appoggiare il nostro messaggio. E noi siamo contenti di mandare questo messaggio anche agli ascoltatori di Essere Benessere. Dottor Lena. Io vi ringrazio per questa opportunità e mi raccomando, andiamo a donare il sangue. Essere Benessere. Sparatele grosse, 800 24 00 24. Devo dire che il professor Cavedini, intanto che sentivamo le informazioni sul traffico, mi dice ma è possibile che nessuno ci racconti una bugia sulla vita di coppia, sulla vita, sull'amore? Mi aspettavo qualcosa di più, no? Perché? Sono quelle un po' più succose che generalmente, però mi rendo conto anche se è un po' difficile dichiararle per radio. Perché ne diciamo tante, secondo lei? Bah, credo su di quello. Sì. Ad esempio il tradimento. Beh, va il bene. Il tradimento è la situazione un po' più eclatante, ma anche, come diciamo prima, un po' quelle bugie che diciamo per pensare in qualche modo così di tenere in piedi un rapporto, su quello che proviamo per l'altro piuttosto che sui nostri comportamenti, che insomma. Roberto, vediamo se Roberto accontenta il professor Cavedini. Roberto, buongiorno. Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno a lei, Roberto. La prima cosa è che questa non è la mia voce, quindi già questa è una bugia, perché posso essere riconosciuto. È stato furbetto, Roberto. Allora, ci racconti velocemente. Voglio vedere se... mi dica. La mia bugia oggi... la dico al capo, me ne vado al mare nel pomeriggio, sparo che vado a fare un sopralluogo invece di andare a una riunione. Bugia utilitaristica, è il venerdì pomeriggio, ci sta, professor Cavedini. Sì, se mi dice dove va lo raggiungo, racconta anche una bugia. Nicola da Napoli, buongiorno. No, è caduto. Roberto da Caserta è caduto. E invece abbiamo in linea con noi un amico che le bugie va a scovarle. Lui ha un po' il pallino delle bugie, le va a scovare anche nel carrello del supermercato. In linea con noi abbiamo Dario Bressanini. Ciao Dario. Ciao Nicoletta. Tu hai un po' il pallino, vero, delle bugie? Vai sempre a smascherarle, le cerchi, però la cosa bella è che una volta che hai smascherato una bugia la racconti in un tuo libro. Eh sì, perché le bugie non le raccontiamo solo noi, le raccontano anche i prodotti e in particolare i prodotti alimentari su cui, come dici, ho un po' la fissazione. E ci sono vari modi per raccontare bugie, con le parole ma ad esempio anche con i colori, lo sapevi? No, io non lo so. Allora, io adesso è una bugia che dico di no, perché io ho avuto il piacere di presentare il libro di Dario Bressanini al Salone del Libro, per cui il libro me lo sono letto tutto gustato e appuntato, quindi io ti dicevo no, ma in realtà sì. Sì, perché è una cosa poco nota, ma ci sono dei prodotti che vengono colorati e noi non ci aspettiamo che ci siano un colorante dentro, per cui ci inganna in qualche modo. Ad esempio gli yogurt, per esempio, quante persone si sono mai prese la briga di leggere l'etichetta di uno yogurt alla fragola e di scoprire che a volte, non sempre, ma a volte è colorato di questo rosa intenso, è colorato con succo di carota o con succo di barbabietola ad esempio. E questo perché ci sta raccontando una bugia, ci sta dicendo guarda che io contengo tante fragole ad esempio o tanti lamponi, mentre in realtà ne contiene molto pochi. Ma di questi tipi di inganni con i coloranti ce ne sono tantissimi, anche succhi di frutta, per esempio alla mela verde ho trovato belli verdi intensi, uno li vede, poi vedi che nell'etichetta c'è scritto che è colorato con la clorofilla. Ecco. Quindi per smascherare le bugie è molto semplice, basta leggere l'etichetta. Questo è il messaggio di Dario Bressanini, ma nel tuo libro tu parli anche ad esempio di un alimento che è molto di moda? Il camut. Sì, perché lì... a volte le bugie prendono la forma anche di leggende, di storie, miti accattivanti, come quella appunto che circola sul camo, che sia un antico grano, un antico frumento coltivato dai faraoni 4.000 anni fa e che siano state trovate questi semi in una tomba egizia da un aviatore americano dopo la Seconda Guerra Mondiale. In realtà il professor Cavedini ci avrebbe creduto? Assolutamente sì. Anch'io, invece? Invece no, perché bugia. È bugia, nel senso che all'epoca degli antichi egizi, prima di tutto il frumento non lo coltivavano il farro o l'avena. È improbabile che dopo 4.000 anni i semi si possano coltivare, ma soprattutto è un grano, un parente del grano duro, che è originario dell'Anatolia e si coltiva ancora adesso in Iran e in altre zone. Anche quindi in Egitto, insomma, sono le bugie del marketing. Se volete scoprire altre bugie, il libro di Dario Bressanini, Bugie nel carrello. Grazie Dario. Grazie Nicoletta. E allora noi siamo in chiusura, vi ricordo che il venerdì, oggi, a proposito, se spesso siete soliti dire non so che cosa cucinare perché non cucino, non ho idea, adesso non potete più dirla questa bugia, perché ci sono le nostre ricette di controsoffritto. Potete andare a vedere la video ricetta che Andrea Ribaldone ha preparato per noi per questa settimana, basta andare sulla pagina di Essere Benessere, giusto Laura? Ok, troverete, io l'ho già vista, è magnifica. Intanto ringrazio il professor Cavedini per essere stato con noi, ringrazio naturalmente la dottoressa Piccinni, Gianmarco Ferronato in regia, la parte tecnica e Laura Vanossi in redazione. Dite qualche bugia anche per me, ma scrivetemela, e intanto noi ci sentiamo lunedì. Essere e benessere.